Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno. Musica Maestro questa sera si è trasferita alla Scala, nell'ufficio del sovrintendente Alexander Pereira. Buonasera sovrintendente. Buonasera, buonasera. E con lui cerchiamo di fare un bilancio di quello che sta davanti, l'Expo, i grandi avvenimenti, anche una prossima stagione che lei presenterà in maggio, tra l'altro. Però diciamo che tutti si aspettano questa apertura del 1° maggio, questa Turandot. Ma l'aspetto anch'io, ma sono tranquillo. Il problema del 1° maggio è che anche le sindacati non possono garantire che le loro membri vengano al lavoro. Noi abbiamo dovuto chiedere ciascun lavoratore, perché c'è una decisione della Corte di Cassazione che dice che il 1° maggio è sacrosanto e solamente l'individuale lavoratore può dire che io vengo a lavorare o no. E allora abbiamo scritto una lettera a tutti i nostri impiegati, e con una enorme maggioranza hanno detto che sono disposto a venire. Allora io sono tranquillo e spero che facciamo una bellissima recita il 1° maggio. Speriamo in un buon 1° maggio, con una Turandot con Chahi e con questo finale di Berio. Che, sì. Tra l'altro noi abbiamo avuto ospite il maestro Chahi, ci ha raccontato tutto, ci ha raccontato anche le sofferenze che insomma questo finale ha causato al maestro Berio. L'abbiamo anche ascoltato e poi ovviamente speriamo come sempre nella sorte delle cose musicali, sovrintendente. Ma Riccardo con grande convinzione ha portato l'idea originalmente a Stefan Lissner, ma dopo anche a me, di fare questo finale di Berio, e io trovo anche un meraviglioso segno della tradizione e di andare avanti, che deve essere sempre quello che dobbiamo fare in teatro, di portare la borsa della tradizione e fare un grande opera come Turandot, ma anche di far capire e far vedere dove la musica deve andare anche in questi giorni. E Luciano ha veramente fatto molte di queste strumentazioni per aprire gli occhi all'ascoltatore che c'è la tradizione, ma c'è anche la porta nuova che si deve aprire. Ma devo dire che c'è anche la Birgit Nilsson di oggi, che si chiama Nina Stemme. Vengono dallo stesso paese e la calore, la forza, la sensibilità e l'impatto, perché lei veramente si butta totalmente in una recita. Nina Stemme è la nostra Turandot di oggi, che porta la famosa Nilsson e la fa, che la possiamo sentire anche oggi, essendo l'individuale voce della Stemme. Ma io credo che questo è un meraviglioso segno che mi piace molto, che alcuni ruoli sono, come si dice, hanno una tradizione di portare cantanti di un certo paese, perché c'è la colore scandinava che forse ha delle dettagli drammatici, anche una parte bianchezza che la voce della Turandot deve avere, perché è molto rigida per la più parte del suo ruolo, e poi all'ultimo momento lei cambia e diviene amante, e questo cambio di colore è in un modo meraviglioso nella voce della Nina Stemme. Ecco, sovrintendente, tra l'altro lei, diciamo così, ha davanti a sé un periodo molto denso, perché non passerà giorno senza che la scala non risponda proprio alle mille esigenze di questi tanti appuntamenti, e poi comincerà una stagione anche di alto livello. So che il programma appunto lo presenterete verso la fine di maggio, ma ci sarà una stagione 2015-2016 notevole. Sovrintendente Pereira, voi lo darete in luglio questo Otello di Rossini, dopo tantissimi anni, dopo tanto silenzio? Sì, dopo 1870, più o meno 73, che il pezzo non era alla Scala. Per me è un'opera che drammaturgicamente esplica la storia, anche in qualche scena meglio che esplica la versione verdiana, e per me è uno dei grandi capolavori di Rossini, e avendo Juan Diego Flores come Rodrigo sarà una cosa meravigliosa. Ma il problema del pezzo è molto difficile, perché si deve avere tre tenori che possono cantare un re. E questo non è così semplice da trovare, ma io ho anche già fatto il pezzo qualche anno fa a Zurigo con Cecilia Bartoli e diretta dal maestro cinese Mu Hai Tang, che aveva una mano molto fine per questo pezzo. E abbiamo veramente convinto il pubblico che questo Otello di Rossini è un capolavoro, e spero che possiamo fare la stessa cosa in Scala. Beh, lei l'ha riportato alla Scala, in fondo. Non è che la nonna della nonna della nonna abbia conosciuto anche Rossini? No, a quello non lo so. Io non ho fatto studi su questo, c'era solamente questo libro che ha scritto, dove Hilde Spiel scrive sul congresso di Vienna del 1815, e da questo libro ho le mie informazioni sulla mia bisbisnonna. Certo. Sovrintendente, poi accanto a questo Otello, che sarà un po' la gemma di luglio, perché lei lo riporta, perché ovviamente sarà anche una bella offerta per l'Expo, si ripropone qualcosa dopo 145 largo circa anni. Ecco, ci sono anche però delle cose estremamente innovative. Ad esempio, per esempio, qui a maggio avremo anche la famosa CO2. Qui non abbiamo potuto dare degli estratti, però CO2 per i chimici è l'anidride carbonica, ma per i musicisti che cos'è? Abbiamo avuto una prova dove la Genesis era dimostrata, era Adam e Eva in paradiso, e il serpente che cerca di convincere Adam di mangiare la mela, e siamo rimasti molto affascinati. È una scena, per esempio, che con le colori e con il linguaggio musicale di oggi racconta in un modo molto magico questa storia di Adam, Eva e il serpente, e tre cantanti meravigliosi che rappresentano più o meno tutto il mondo, perché una viene dall'Africa del Sud, l'altro viene da Sri Lanka, e il terzo è un inglese. Quello che voglio dire l'Expo è che Milano è un po' il centro del mondo, e tutto e Milano deve andare in tutto mondo anche con questo Expo. Questa opera sarà su questo tema, e io sono molto ottimista che sarà una serata molto molto interessante. Certo, e accanto a queste ovviamente poi ci saranno serate importanti, perché tra qualche giorno, appunto subito dopo l'esordio di Turandot, avremo i Berliner, e ci saranno appunto dei momenti anche magici, insomma, succedersi delle situazioni. È molto bello la Scala questa volta. Sì, come io ho detto adesso, tutto mondo viene a Milano. Allora, musicalmente cosa vuoi dire? E abbiamo pensato che fa senso di invitare le più grandi, famose orchestre del mondo per creare un grande festival internazionale orchestrale, e l'apertura sarà il 2 maggio con la Berlina Filarmonica, con Simon Rattle che dirigerà la settima di Bruckner. Ci sarà la Filarmonica di Vienna con Maris Janssens, con la seconda di Mahler. Ci sarà l'Orchestra de Paris, ci sarà la London Philharmonic, ci sarà il Festival Orchestra di Budapest, ma anche gruppi, diciamo, speciali, che Nicolas Harnoncourt viene a dirigere Sinfonia di Beethoven con il suo Concertus Musicus, o Cecilia Bartoli che farà un programma sulle linee di Vivaldi, ma anche sul suo tema di San Pietroburgo. Allora io credo che sarà veramente un festival molto interessante, e nel cuore di questo festival viene anche tutto il progetto e il sistema. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in trasferta, siamo nello studio del sovrintendente della Scala, Alexander Pereira, che ci ha accolto con molta disponibilità, appunto per raccontarci un po' tutti i programmi della Scala con l'Expo e poi con la prossima stagione. Ma io potrei dire una battuta, sovrintendente, lei ovviamente non mi risponda. Direi che tra le tante istituzioni e le tante organizzazioni che a Milano hanno preparato l'Expo, la Scala era preparatissima. Il resto non lo so, vedremo. Però la Scala ha tutto a punto, è tutto a posto, cioè non c'è niente in ritardo qua, caro sovrintendente. Sì, no, siamo pronti da un anno, ma io sono anche sicuro che forse 5 minuti dopo le 12, ma l'Italia sarà pronta per questo Expo. E io sono anche convinto che ci sarà un grande risorgimento dell'Italia che viene fuori di questa fiera internazionale. No, abbiamo chiuso prima con l'idea del progetto e il sistema. Lì vorrei forse esplicare un secondo. In 30 anni fa un ex ministro della cultura in Venezuela è andato nelle favele, ha parlato con le parenti e ha detto: dammi il tuo bambino, io lo porto a scuola, io lo do a mangiare e il pomeriggio lo faccio insegnare un strumento. Voi parenti potete lavorare tutti e due. Allora ha migliorato la situazione economica della famiglia, e oggi 400.000 bambini apprendono un strumento entro questo è il sistema, che lui ha 280 orchestre, è il più famoso, è l'Orchestra Simon Bolivar, e il direttore più famoso di questo sistema è Gustavo Dudamel, il famoso anche direttore musicale del Los Angeles Philharmonic. E Gustavo viene con tutto il sistema a Milano quest'anno facendo la Bohème. Allora, coro orchestra di El Sistema farà la Bohème con un cast internazionale. Lui farà 3 concerti d'orchestra in più con la sua orchestra, ma vengono anche le iniziative dall'inizio alla fine, perché l'idea, in contrario al nostro sistema europeo, dove un bambino suona il suo violino per 12 anni in una camera e non vede mai un altro, lui le mette subito in orchestre e comincia con delle orchestre di 4 anni. E in questo caso abbiamo invitato l'orchestra infantile, che sono le bambini da 8 a 12 anni, che saranno diretto da Riccardo Chailly. Due anni fa a Salisburgo questo concerto era diretto da Simon Rattle e noi abbiamo avuto tutte le larme e le lacrime e quando Riccardo ha visto questo concerto ha detto guardi io te lo faccio subito. E credo che sarà una cosa molto molto emozionante, ma dall'altra parte fa vedere a noi che siamo in crisi sulla nostra educazione musicale, come si può arrivare a un nuovo livello con nuove idee. E spero di iniziare anche un nuovo sviluppo di insegnamento con questo progetto e il sistema. Io penso che sia un progetto molto bello e susciterà indubbiamente interesse, emozione come a Salisburgo e ovviamente magari anche desideri per riaverla in altre situazioni, in altre occasioni. Questo non lo sappiamo, insomma. Speriamo almeno. Ecco, ma e guardando invece la prossima stagione, lei so che la presenterà in maggio, però diciamo così, qualcosuccia ci può anticipare. Come dopo Expo, cosa succederà alla Scala, perché la Scala non si ferma un minuto quest'anno, insomma. No, ma io credo anche alla Scala che è molto dinamica negli anni prossimi. Io voglio fare 15 titoli all'anno di opera, 6-7 di balletto ciascun anno. E il primo titolo della nuova stagione 15-16 sarà un titolo che la Scala non ha fatto da 150 anni. È un titolo che è nato alla Scala in 1835, allora sono altri 20 anni in più, e si tratta di un capolavoro verdiano che la gente non vede veramente, vede come un titolo di gioventù che non è un titolo di gioventù, si tratta della Giovanna d'Arco. Due anni fa io ho fatto anche a Salisburgo due recite concertante di questa Giovanna d'Arco e la gente si è ammazzato per entrare in questo spettacolo. La Anna Netrebko faceva la Giovanna e Anna Netrebko canterà anche la Giovanna quest'anno alla Scala e per me è per questo repertorio il più grande soprano del mondo e uno dei più grandi del secolo. Allora ci sarà veramente un elemento molto importante, c'è Francesco Meli come tenore e Riccardo Chailly, che ha già diretto il pezzo a Bologna, che lo ama moltissimo, che anche lo estimo come capolavoro di Verdi, e facciamo la prova questo 7 dicembre, che questo è veramente un meraviglioso pezzo. Quindi l'apertura sarà questa Giovanna d'Arco, che aprirà la Giovanna d'Arco, che tra l'altro non si ascolta la Scala dal 1835, dicevamo, no, vero? 65. Sì, ci sono un po' di anni, insomma, che è un po' difficile anche stabilire delle date esatte, talmente è passato il tempo. Mi costava qualche convinzione originalmente, ma alla fine la Anna ha detto sì, va bene, faccio il pezzo, e dopo aver cantato il pezzo si è veramente ancora di più innamorato e mi aveva detto ma sarebbe bellissimo di farla alla Scala, e sapendo che Riccardo adora anche il pezzo, il passo non era molto lontano per avere questa geniale idea di mettere questo pezzo, no? Per un'apertura, perché è anche un segno che Chailly e io voglio dare di riportare titoli per esempio anche nella stagione prossima, ma non voglio annunciare tutta la stagione, per favore. Faremo ma... una puntata su quella, sovrintendente, ci mancherebbe. No, cioè, però ci dica un'altra cosa. Un'altra cosa è che nel 1926 Toscanini ha diretto in Scala un pezzo che io trovo uno dei capolavori di, del verismo, si tratta della Cena delle Beffe di Giordano, famoso film, come lei sa perfettamente, allora grande tradizione italiana, perché chiunque parla anche del film degli anni 30, credo. Allora questo sarà anche un altro titolo in questa stagione che riporta una grande tradizione della Scala, forse un po' dimenticata. Io, per me è veramente peccato che nel repertorio della Scala abbiamo solamente un titolo di Donizetti in repertorio, è l'Elisia d'amore, niente di Bellini. E in verismo, a parte della Cavalleria Rusticana Pagliacci, il verismo praticamente non esiste, ma ci sono grandissimi titoli che hanno fatto storia in questo. Se io alzo le scale della Scala, andando dal piano terreno al piano zero al piano uno, una locandina dopo l'altra di questi famosi primi che la Scala ha fatto entro, diciamo, 1910 e 1940, e questo è veramente un grande patrimonio italiano per il mondo, che dove il rinnovare deve venire dall'Italia. Non è possibile che la Deutsche Oper Berlin dichiara che adesso facciamo il verismo italiano. Lo devono fare gli italiani loro stessi, e per questo aumenterò anche il numero delle nuove produzioni, per dare più spazio senza perdere il repertorio internazionale, per dare più spazio alla grande tradizione italiana. Beh, del resto di lavoro ne ha da fare, sovrintendente, perché adesso, a parte Expo, che è stato un po' di straordinario, insomma, con tutti i problemi che può ovviamente causare un appuntamento di questo genere, ma dalla prossima stagione lei vuol recuperare, e lo sta già facendo, molto repertorio italiano, già questo Otello di Rossini, poi Giovanna d'Arco di Verdi, riporta un po' alla Scala quello che alla Scala è nato e che forse alla Scala si è dimenticato, no? Guardi, in tempi dove è difficile trovare soldi, si riduce sempre il programma, perché si cerca di risparmiare, ma riducendo il programma uno rimane solamente con le più grandi titoli internazionali, che si deve fare in ogni modo. Adesso investiamo, e l'investimento sarà nella tradizione italiana. Per questo più o meno la metà di tutti i titoli dell'anno, dal barocco a oggi, perché dobbiamo anche dedicare una parte della nostra programmazione sulle compositori di oggi. Faremo un lavoro anche sull'Italia molto importante. Beh, le faccio tutti i miei auguri, le invio tutti i miei auguri, sovrintendente, anche perché diciamo, questa esigenza è sentita da tempo, molte volte è stata chiesta, molte volte non c'è stata data una risposta, quindi noi non possiamo che farle un grande incoraggiamento, ovviamente tifare per lei. Senta, un sogno che lei ha nel cassetto, ci può fare una piccola confessione, oltre che quelle che ci ha detto, non della prossima stagione, perché poi gli dovremo fare un incontro per la prossima stagione e poi vedremo tutte le cose, ma lei un sogno che ha nel cassetto in questi ultimi minuti di trasmissione, un'opera impossibile che vuol realizzare, ce n'è una? Ma io ho 20 opere impossibili in testa che voglio realizzare, perché uno come direttore di teatro vive sempre con 20-30 titoli e va in giro, sogni di questi titoli, ma alla fine devo trovare il maestro giusto, le cantanti giusti, il regista giusto, e lì non devo concentrarmi su una certa data, devo lasciare tutto aperto e aspettare finché forse alcuni di questi elementi si concentrano su un certo pezzo. Ma uno dei sogni che ho, per esempio, è di fare un'opera di Schubert alla Scala, perché Schubert, più grande compositore, uno dei più grandi del mondo, tutto il mondo dice che lui non sa scrivere opere. In verità lui ha scritto le più per la voce umana, le lieder le più belli, ha scritto le più belle sinfonie. Non posso credere che si riunisce questi due elementi, viene fuori un asino. È impossibile, deve essere anche una cosa di altissimo livello, e per questo è uno dei amori che io ho in cuore. Questo non è un amore italiano in questo caso, ma no, io ho già parlato molto del mio amore per il repertorio italiano. Allora questo è un amore speciale di far avvicinare Schubert al nostro pubblico. Più che lecito, sovrintendente Pereira. Senta, il tempo è volato come un lead di Schubert, proprio non ne abbiamo più. Io la ringrazio per questa ospitalità e per essere stato con noi. Le do ovviamente appuntamento prima della prossima stagione, e ai nostri ascoltatori do appuntamento come sempre domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Alexander Pereira.